Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia. Sono quasi le 17.10 e quindi siamo pronti a raccontarvi anche oggi la giornata economico-finanziaria che guarderà inevitabilmente ai fatti di Atene, che si incrociano però anche con altre tappe, con altre città europee, tra Bruxelles ma anche Washington, perché naturalmente in tutte le trattative per il rimborso del debito c'è anche un ruolo fondamentale del Fondo Monetario Internazionale. In realtà oggi incrociamo anche Roma, perché abbiamo avuto questo incontro fra il ministro delle finanze greco Varoufakis e con il nostro ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Ci sono già le prime dichiarazioni su questo incontro. È stata espressa da entrambi i ministri fiducia per come andrà l'Eurogruppo di lunedì, chiamato naturalmente ancora una volta a pronunciarsi sulle vicende greche. Vi racconteremo quello che è successo oggi. Intanto la Grecia è riuscita a versare una tranche da 200 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale per il rimborso del prestito. C'è una nuova tranche che deve essere versata entro martedì 12 maggio da 750 milioni, ma c'è un'ultima tranche di prestito da oltre 7 miliardi di euro che è inevitabilmente più problematica, della quale si discute molto. Ci sono anche delle notizie che aspettiamo da Francoforte, perché fino adesso le banche greche sono riuscite a resistere da questa crisi potentissima grazie alla liquidità che ancora la BCE continua a erogare e a garantire, e grazie alla quale anche ancora soprattutto gli stipendi appunto dei funzionari pubblici, gli stipendi pubblici greci possono essere ancora onorati. Ma la Banca Centrale Europea, aspettiamo di saperlo oggi, non abbiamo ancora notizie, sta chiedendo alle banche greche appunto ancora un aumento delle garanzie che devono essere date naturalmente in cambio di questo mantenimento di questa liquidità. La BCE vorrebbe alzare ulteriormente i paletti, non abbiamo appunto, ribadisco, ancora notizie, ma oggi dovrebbero esserci decisioni anche in merito a questo, quindi ne parleremo naturalmente ancora a lungo. La Grecia ieri aveva dato soprattutto nel pomeriggio una forte scossa ai mercati, che avevano chiuso in territorio pesantemente negativo. Questa mattina c'è stata molta volatilità fra i listini europei, sono arrivati anche a recuperare circa un punto per poi di nuovo rallentare il passo. Adesso abbiamo questo quadro: Parigi sta salendo dello 0,30%, Francoforte sale dello 0,45%, Londra più 0,16%, Milano più 0,62%. Abbiamo un quadro negativo a Wall Street, dove il Dow Jones perde lo 0,30%, lo Standard & Poor's lo 0,21%. Peraltro, poi ve la darò questa notizia fra un po' nelle notizie in breve, appunto, c'è un dato che anticipa generalmente la statistica sulla disoccupazione che arriva ogni mese. È una statistica rilasciata dall'agenzia ADP. Oggi questa statistica non è stata particolarmente positiva e questa notizia si è riflessa sul mercato valutario, perché proprio poco fa l'euro ha ripreso a correre sul dollaro e si è riportato a 1,1339, livello su cui sta in questo momento, è arrivato a 1,1361, stamattina eravamo a 1,12, per cui pensate che recupero appunto ha fatto la moneta unica europea oggi sul biglietto verde. Quindi parleremo anche di questo, parleremo naturalmente della giornata di borsa concentrandoci su Piazza Affari, dove in questo momento c'è un buon rialzo per tutti i titoli del settore bancario. Naturalmente racconteremo un po' tutte le storie e i movimenti più vistosi della giornata. Parleremo, tra le altre notizie che animeranno Focus Economia questa sera, di mutui. C'è una iniziativa molto importante da parte di Unicredit, una delle più grandi banche italiane, che mette in campo un bel po' di risorse per ridare il suo contributo al rilancio del settore immobiliare italiano. Ce lo faremo spiegare poi dal Country Chairman Italy Gabriele Piccini, che cosa hanno fatto, su cosa stanno spingendo. Parleremo poi con una donna che è una grande manager, Tiziana Primori, amministratore delegato di Italy World di Bologna, che riceve tra poco a Milano il premio Tecnovisionarie Women CEO di Expon Women Global Forum, praticamente la migliore amministratore delegato al momento per quello che riguarda il suo settore, ed è un premio questo molto particolare che si lega anche un po' a tutta l'innovazione che viene fatta in questo momento nel settore agroalimentare, che è il grande osservato speciale a livello mondiale grazie anche ad Expo 2015, ma non solo. Poi affronteremo una complicatissima questione fiscale. Io al momento ve la cito solo, ma poi per fortuna avrò un collega del Sole 24 Ore che mi orienterà in questa giungla. Parleremo dell'inversione contabile dell'IVA, della cosiddetta reverse charge. Vi spiegheremo bene di che cosa si tratta e perché è così importante anche per la nostra economia disciplinare che venga disciplinata con chiarezza questa questione, perché se non viene ben disciplinata si rischia dal 1 luglio un nuovo aumento delle accise, quindi nuovi carichi fiscali sulle spalle dei contribuenti italiani. 349-238-6666 come sempre il numero per tempestarci di messaggi. Non cominciate a chiedere dove è Barisoni, oggi non c'è, aveva bisogno di una giornata, per cui questa sera a condurre Focus Economia ci sono io, adesso io che vi racconto le notizie in breve. Allora, dell'euro vi ho già detto, le materie prime, oggi l'oro ha una sostanziale stabilità rispetto alle quotazioni degli ultimi giorni, 1194 dollari l'oncia, il petrolio è risalito ancora a 62 dollari al barile, queste naturalmente sono le quotazioni di New York. Vi parlavo del movimento sul mercato valutario oggi, il dollaro si è indebolito in concomitanza con la diffusione del dato sull'occupazione americana. Oggi c'è una pre-statistica rispetto a quella ufficiale che sarà diffusa venerdì. Il settore privato americano ha creato in aprile 169.000 posti di lavoro e il sondaggio elaborato dall'agenzia ADP è un dato inferiore alle attese, perché gli analisti scommettevano sulla formazione di almeno 200.000 nuovi posti di lavoro. Dicevo, i dati ufficiali sul mercato del lavoro saranno diffusi venerdì. Gli analisti per quel momento prevedono la creazione di 225.000 nuovi posti di lavoro, con un tasso di disoccupazione negli Stati Uniti in calo al 5,4% venerdì. Lo vedremo. Intanto la Federal Reserve, la banca centrale americana, resta vigile sulle banche e sui rischi emergenti nel sistema finanziario. Lo ha affermato oggi la presidente della banca centrale statunitense Janet Yellen, che ha sottolineato che sono stati fatti significativi progressi nell'affrontare i problemi del settore e misure sono ancora allo studio per risolvere la percezione del cosiddetto too big to fail, cioè una banca troppo grande per fallire. Intanto i tassi bassi hanno sostenuto la creazione di posti di lavoro e crescita, lo afferma la stessa Janet Yellen, sottolineando che in un contesto di tassi bassi è necessario però essere vigili sulla stabilità finanziaria, perché i rischi alla stabilità finanziaria ci sono anche se sono moderati. Non vediamo, dice Janet Yellen, segnali di bolle. La numero uno della Federal Reserve ha risposto oggi alle domande che le erano state fatte dal direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, con la quale ha dato luogo ad un'intervista incrociata. C'è stata questa intervista incrociata oggi negli Stati Uniti fra queste due donne, che sono certamente fra le più potenti al mondo. E infine, da questa intervista incrociata, allora cosa ha detto la stessa Christine Lagarde? Dalla crisi sono stati fatti importanti progressi per migliorare il sistema finanziario, ma nella finanza è necessario un cambio di passo, un cambio di cultura, perché c'è bisogno di un sistema finanziario che sia più etico ed orientato ai bisogni reali dell'economia, di un sistema finanziario che serva la società. Direttore Lagarde, qua lo sappiamo bene, insomma, non è che poi non sia mai stato detto questo. La Lagarde ha sottolineato che l'obiettivo è perseguibile con le regole, ma anche con un aumento delle responsabilità individuali. Andiamo in Europa. Allora, sentite qua che cosa è successo oggi in Germania. In realtà è un problema che riguarda un bel po' di cittadini europei che non riescono a prelevare i loro soldi dagli sportelli bancomat. Il prelievo non può essere eseguito, dice questo messaggio che molti malcapitani hanno trovato appunto a questi sportelli, per assenza di contanti. Dove è successo? Pensate che è successo a Berlino, perché la Germania degli sportelli bancomat ha finito i contanti. Che cosa è successo? Non c'è certamente una crisi simile a quella greca, ma c'è banalmente uno sciopero dei trasporti. In ballo c'è la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di un gruppo di dipendenti di una importante società di sicurezza locale berlinese che cura proprio il trasporto valori per la città tedesca. Oggi questi signori hanno incrociato le braccia e quindi niente soldi dentro gli sportelli bancomat. Qualche notizia dall'Italia, contabilizzazioni spesso errate, particolare aleatorietà nelle sottoscrizioni, violazioni normative e notevoli squilibri contrattuali in danno agli enti per la mancata valutazione della convenienza economica dei contratti. Parole difficili per indicare alcune delle gravi anomalie che sono state denunciate dalla Corte dei Conti nell'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti locali. Ne abbiamo parlato spesso, sono speciali strumenti che vengono sottoscritti appunto dagli enti locali, ma non solo, anche da imprenditori per proteggersi da determinati rischi finanziari. A fronte, dice la Corte dei Conti, dei circa 160 miliardi del portafoglio degli strumenti derivati dello Stato, all'inizio del 2015 il valore nozionale dei contratti sui derivati degli enti territoriali sarebbe di poco inferiore ai 25 miliardi, il 60% dei quali imputabili ai contratti sottoscritti da regioni e province autonome. Insomma, una questione complicata che più avanti commenteremo anche con un nostro collega del Sole 24 Ore. Velocemente altre notizie dall'Italia, c'è come sapete la questione aperta delle pensioni da restituire a migliaia di pensionati italiani, quelli a cui era stato bloccata appunto la rivalutazione sulla base dell'andamento dell'inflazione. Bruxelles aspetta la decisione del governo su come attuare la sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito questo appunto e poi ne valuterà l'impatto sui conti, ma questo non deve compromettere l'impegno italiano a rispettare le regole del patto, così fonti europee hanno precisato che la sostenibilità dei conti italiani deve restare una priorità anche alla luce dell'alta spesa pensionistica. Escludo, ha detto però, che sia possibile restituire a tutti l'indicizzazione delle pensioni, per quelle più alte sarebbe immorale. Chi oggi si è incaricato di questo commento? Il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, sentiamolo. L'impatto della sentenza è ovviamente statico nel 2012-2013 nell'ordine di 5 miliardi, ma determina poi un effetto di trascinamento di circa 3 miliardi per ognuno dei successivi. Ovviamente la sentenza va rispettata, la sentenza chiede gradualità, chiede attenzione soprattutto per le pensioni di importo minore, su questo non ci piove, ma quando cominciamo ad andare varie volte sopra la minima, il blocco dell'indicizzazione in un contesto in cui sono stati chiesti sacrifici sia ai pensionati di domani sia ai quasi pensionati è un provvedimento che non può che rimanere. Il governo è al lavoro in questo momento per creare una situazione sostenibile. Posso senz'altro dire, per quanto riguarda noi di Scelta Civica, che è impensabile andare a restituire l'indicizzazione anche per le pensioni di molte volte superiore alla minima, in un contesto in cui si sono chiesti sacrifici importanti ai pensionati di domani, che avranno il contributivo e non il retributivo, e sacrifici importanti ai quasi pensionati che si sono visti spostare l'asticella proprio in vista del traguardo. Ciascuno deve fare la sua parte. Di colonna sonora, come sempre, ci introduce anche al cambio di argomento. Poi magari altre notizie in breve interessanti le avevamo, ne daremo conto più avanti. Adesso però la cronaca sull'evoluzione della crisi greca si impone. Prima di tutto il buonasera a Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore. Buonasera a voi. Che è qua a Milano questa volta, curiosamente non è ad Atene dove va spesso, ma che magari dovrà rivisitare prossimamente, perché qua la situazione si surriscalda di minuto in minuto. Prima però di sentire quello che ci racconta, per quello che riguarda la cronaca odierna, Vittorio Darold, vi faccio sentire il commento su questa vicenda, le novità di oggi, le novità degli ultimi giorni da parte di Alessandro Plateroti nei suoi 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. con Alessandro Plateroti. Una volta in borsa si diceva che il ribasso era il territorio dell'orso. Adesso, con la questione greca che si trascina ormai da 5 anni, chissà, magari si dirà che il ribasso è figlio del branzino. Ma scherzi a parte, la questione continua a tenere banco. Salvare Atene, non salvare Atene, quali concessioni chiedere e che cosa cedere. L'Europa continua a essere divisa, confusa. Sembra quasi che l'intenzione generale sia quella di trascinare il caso greco il più a lungo possibile, quasi a non volerlo risolvere. Non è un caso che se la BCE da un lato continua a minacciare la Grecia di accettare le condizioni dell'Unione Europea, del Fondo Monetario e della BCE, dall'altra parte continua ad elargire, quantomeno a finanziare le banche greche e quello che è, diciamo così, un fabbisogno di liquidità che diventa sempre più stretto. Ma c'è anche dei fatti curiosi che avvengono dietro le quinte. In questi giorni si parla sempre più spesso di una possibile Grexit, cioè l'uscita della Grecia dall'euro, con la conseguenza di una corsa dei risparmiatori ai bancomat per prelevare soldi e fuggire. Ebbene, curiosamente, l'unico paese d'Europa che oggi non riesce a dare ai propri clienti il bancomat è proprio la Germania. Lo sciopero dei trasportatori, in particolare dei portavalori, ha infatti privato i bancomat tedeschi delle banconote. I tedeschi tentano di prelevare e non esce fuori niente. Come dire, un assaggio di una crisi greca. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Eh sì, questa faccenda del blocco dei bancomat tedeschi ci ha incuriosito davvero tanto che abbiamo dato ben 2 volte la notizia in questa prima parte di Focus Economia, ma andiamo invece a capire quello che sta succedendo ad Atene. Intanto c'è stato questo incontro del pomeriggio fra Padoan e Varoufakis. Come mai sta facendo questo giro Varoufakis? Come mai era a Roma oggi Vittorio D'Arold? Stava cercando di ricucire un po' i rapporti soprattutto con l'Italia e Parigi, che sono i suoi alleati migliori in questo momento, e soprattutto con Parigi la situazione si era fatta molto tesa. Domani comunque sarà anche a Madrid, quindi Varoufakis sta cercando in qualche modo di recuperare la situazione molto tesa dell'ultimo Eurogruppo, esatto, a Riga, dove era che lo stesso aveva compromesso peraltro, no? Proprio perché aveva, come scriveva questa mattina Alessandro Merli sul Sole 24 Ore, è stato accusato di mancanza di concretezza nel negoziato e di rivolgersi agli interlocutori con l'aria di chi sta impartendo una lezione, e aveva naturalmente raggiunto un punto di rottura. D'altronde è un professore, quindi impartisce delle lezioni. Esattamente, però 18 contro 1 Tsipras ha avuto il timore che forse fosse il momento di cambiare. Infatti è stato in qualche modo commissariato Varoufakis. Adesso il capo della delegazione è cambiato, è Tsakalopos, e poi c'è Dragasakis, il vice ministro per l'economia. Parli con una padronanza come se fossero tutti amici tuoi, Vittorio, ma devo dire che oggettivamente, occupandoti da tanto tempo tutti i giorni di questa faccenda, c'è proprio quasi una familiarità ormai. Devo dire che è una cosa strana, ma ormai essendo tutti quanti con la stessa moneta in tasca, dobbiamo parlare della politica interna di un paese amico, vicino, ma sì, comunque un paese che non è appunto il nostro, approfittandone, ma sapendone anche i riflessi della politica interna, perché ci interessa sapere esattamente quello che succede. Una volta, certo, nessuno avrebbe saputo a menadito chi è il sottosegretario delle finanze greco, e oggi invece dobbiamo saperlo perché abbiamo dei comuni destini, certo. Questo è il vero discorso. Tant'è vero che quando tutte le volte si ripalesa il rischio, lo spettro della Grexit, le borse ne risentono anche i nostri investimenti, e quindi ci tormentiamo un po', anche perché questo è uno scenario del tutto imprevedibile, per i quali anche i trattati che hanno costituito l'Unione Europea sono del tutto sprovvisti in termini di clausole scritte da qualunque parte, per cui è bene che hai ragione tu che queste dinamiche le seguiamo. Torniamo un po' a questo roadshow di Varoufakis di questi giorni. Sì, Varoufakis appunto è stato in qualche modo, diciamo, noi diciamo commissariato, ma comunque ridimensionato nella sua funzione di unico interlocutore. Adesso c'è una squadra un pochino più ampia, ci sono delle persone che probabilmente sono un pochino più pragmatiche e vanno a cercare quell'accordo che tutti auspicano. Però il problema è che la ex troica, quindi la BCE, il Fondo Monetario e l'Unione Europea, si sono divisi. Questa è un po' la situazione complessa, perché il Fondo Monetario per statuto deve prestare solo quando ha la certezza che i soldi tornino a casa, ed è in qualche modo il debitore più debitore degli altri o il creditore migliore degli altri, nel senso che quando c'è da pagare il Fondo Monetario ha un diritto di prelazione su tutti gli altri. Ed è invece proprio il Fondo Monetario Internazionale che è il primo attore che dice quasi quasi il debito greco lo cancellerei tutto. E esattamente, un po' che... cioè il Fondo Monetario dice che se non si raggiungono dei target così come avevano fatto nel 2012 quando gli fu dato il secondo tranche da 130 miliardi, allora l'unica cosa è o dare più soldi o ridurre il debito. Però il debito, il fondo non parteciperebbe a questo haircut, cioè lo farebbe tutto a carico degli altri, cioè degli europei, che naturalmente non ne vogliono sentir parlare, anche per questioni politiche interne. Chi vuole dare ancora soldi? Ecco, questo naturalmente non è molto popolare. Allora però la situazione si sta creando una frizione e una divisione interna agli stessi creditori. E in questa situazione i greci hanno avuto buon gioco di dire, beh, quando vi siete messi d'accordo, anche perché la ricetta cambia, cioè il Fondo Monetario chiede pensioni e lavoro, riforme su questi due temi, invece gli europei, seguendo naturalmente quella che possiamo chiamare la dottrina Schäuble, attenzione, soprattutto il conti in ordine e quindi il surplus di bilancio. Tutto questo naturalmente non mette i greci nella condizione di capire bene che cosa bisogna fare e intanto hanno fatto una cosa che a noi farebbe un po'... Rabbrividire l'assunzione di questi 13.000 statali, no? Perché ho visto anche che tu nel tuo pezzo sul sito del Sole oggi hai cambiato più volte le cifre, si parlava di 4.000 nuove assunzioni questa mattina, poi hai fatto un aggiornamento abbastanza clamoroso, cos'è successo? No, semplicemente questo, 4.000 sono quelli che erano stati licenziati e poi sono stati reintegrati, cioè il governo prevede di reintegrare questi 4.000 licenziati. Poi ci sono i restanti che sarebbero quelli che avevano vinto un concorso ma non erano mai stati messi, diciamo, erano stati congelati. Ecco, allora la somma di questi due, naturalmente i 4.000 erano già stati assunti ed erano stati licenziati perché ricorderete, insomma, c'era stato un tentativo di ridurre il numero di, perché erano state assunzioni clientelari, erano state assunzioni sopra le righe, eccetera. Insomma, da 900.000 sono arrivati a 630.000. Quindi la forza, diciamo, complessiva è stata veramente ridotta nell'arco degli ultimi 5 anni. Bene, cosa fa Tsipras? Promette, quando va in campagna elettorale, di riassumere quei 4.000 che a suo giudizio erano stati licenziati ingiustamente e poi ha dato il via libera a quei 7.000 in più, 8.000 non si sa bene quanti siano, comunque erano in lista d'attesa e quindi di riassumerli. Allora, che cosa c'è dietro questo scontro anche qui? Cioè Tsipras dice non posso continuare a puntare tutto sull'austerity, sacrifici, tagli eccetera, perché continuando così naturalmente non c'è crescita, non c'è, la disoccupazione aumenta e non ho sviluppo, quindi una parte di quel famoso surplus che doveva servire a ridare il debito, a pagare il debito con i creditori, che era addirittura il 4,5%, perché oggi la Grecia è in parità, cioè addirittura un surplus, tolto naturalmente gli interessi primari, cioè quindi stiamo parlando di un deficit senza contare gli interessi sul debito. Sul debito. Però quel 4,5 lui diceva, beh, facciamo 1,5, facciamo un po' di meno, cioè vi restituisco un po' meno soldi al debito e il resto lo impiego appunto per le famiglie bisognose, mettere un po' in sesto il paese. Cioè per rilanciare il paese. Allora, non ha tutti i torti su questo, ma naturalmente bisogna trovare un equilibrio, soprattutto tra le richieste del fondo e le richieste dell'Unione Europea. Questa è la vera difficoltà. E al di là delle lezioni di Varoufakis, che sono state appunto abbastanza poco accette, la questione è, si può morire di austerity? Beh, quando tu hai dopo 5 anni una situazione che viene radiografata dalla stessa Commissione Europea ieri con un debito greco che è passato a 180%, evidentemente qualcosa non ha funzionato. Chiarissimo. Ti chiedo di fermarti un attimo, Vittorio, facciamo così, sentiamo la pubblicità, adesso abbiamo la nostra pausa, chiedo a Barbara se gentilmente trasferisce l'informazione a radio e ora se possiamo farli dopo le 18 con l'aggiornamento di borsa, perché dalla Grecia abbiamo anche altre cose interessanti da raccontare, come per esempio questa patrimoniale a cui Tsipras avrebbe pensato, un prelievo speciale su 500 famiglie particolarmente ricche del paese. Insomma, di iniziative lui ne sta tentando di mettere in campo, sono un po' tutte folcloristiche, però fa quel che può. Vorrei raccontarle con Vittorio, poi dobbiamo anche parlare di mutui come promesso. Intanto però do la parola, passo il microfono a Filippo Aureggi. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Focus Economia. Ho trattenuto con me Vittorio Daroldo ancora per un paio di minuti, solo per completare il quadro della cronaca odierna con le notizie che riguardano la Grecia, perché che se ne dica, poi ogni tanto, quando il conflitto con le altre istituzioni internazionali torna ad inasprirsi, il mercato lo prezza e ci spaventiamo, per cui teniamo un po' sotto controllo quello che succede nella piccola Grecia. Abbiamo parlato poco fa, ci ha spiegato Vittorio come è funzionata questa faccenda dell'assunzione di 13.000 statali, fra cui molti reintegrati, funzionari licenziati sulla scia delle misure di austerità che erano state imposte negli anni precedenti. C'è stato questo progetto di legge, lo leggevo adesso, che si intitola Democratizzazione dell'amministrazione, e non solo. Altre cose carine che sono arrivate oggi: intanto il Ministero delle Finanze è riuscito a versare una tranche per il Fondo Monetario Internazionale da 200 milioni di euro, che non è una brutta notizia. Vittorio. No, assolutamente, perché come dicevamo, il Fondo Monetario è un creditore, diciamo, diverso da tutti gli altri, cioè un primus inter pares. Se non paghi il Fondo Monetario, tu immediatamente scattano delle clausole per cui tutti gli altri hanno il diritto di chiedere l'immediato rimborso di tutto il loro debito. Quindi il default nei confronti del Fondo Monetario è una cosa gravissima dal punto di vista anche dell'apertura ai finanziamenti internazionali. In sostanza non si può fare, è una cosa pericolosissima. Ecco perché il 12 maggio, cioè il giorno dopo l'Eurogruppo, che però tutti dicono, da Dijsselbloem, che è il presidente dell'Eurogruppo, al ministro della finanze francesi Sapin, tutti dicono che questo sarà ancora inconcludente. Questo quindi rischia ancora di creare tensioni, perché lì bisognerà che Atene paghi altri 760 milioni di dollari, appunto, nei confronti del Fondo Monetario. Fondo Monetario che, come dicevamo, chiede ancora riforme e dice che se non si va avanti con una rapidamente, lui sarebbe addirittura intenzionato a non pagare la sua quota, perché di questi 7,2 miliardi, che lo ricordo sono fermi da agosto dell'anno scorso, quindi c'era ancora Samaras, che neanche lui aveva trovato l'accordo, perché anche lì si chiedeva di aumentare l'IVA e si chiedeva appunto di rimettere a posto le pensioni. Samaras, sapendo che avrebbe dovuto andare al voto, se n'è ben guardato di fare cose del genere ed è appunto caduto dopo. Dopo si è andato al voto e naturalmente abbiamo visto chi ha vinto. Allora, continuare a fare queste politiche di austerity intransigenti naturalmente crea tutta una serie di situazioni che avvantaggiano naturalmente chi dice adesso basta. Ti lasciamo andare, Vittorio, intanto segnalo che comunque Tsipras è al lavoro e continua ad ampliare questa lista di riforme da presentare alle autorità, le istituzioni internazionali. Avrebbe anche pensato ad una tassa per i lavoratori che guadagnano più di 30.000 euro l'anno, che dovranno appunto pagare sui beni di lusso, una tassa sul lusso su oggetti come macchine di lusso, l'introduzione di una tassa sui viaggi di lusso per le isole greche, ma ci sarebbe anche in vista l'obbligo per le persone fisiche di utilizzare la carta di credito per i pagamenti oltre i 70 euro. Insomma, ne avremo ancora da raccontare. Vittorio, grazie per grazie essere a voi. Stato con noi. Buona serata. Noi intanto andiamo a sentire il traffico. Focus Economia. Adesso abbiamo un piccolo approfondimento su un tema che gli italiani amano molto: i loro investimenti nel mattone. Come sapete, il settore è in ripresa, i prezzi, diciamo, degli immobili italiani favoriscono un po' le compravendite che sono in recupero, lo ha certificato l'Istat proprio pochi giorni fa. I tassi di interesse bassissimi favoriscono anche l'erogazione del credito su livelli molto convenienti. Oggi proprio Unicredit ha presentato Gli italiani e il mattone è il momento giusto, un pacchetto di iniziative per contribuire al rilancio del settore immobiliare in Italia, vista, come vi dicevo, la situazione del credito. Verrebbe da dire ora o mai più, ed è proprio questa la domanda che abbiamo fatto nella nostra intervista che abbiamo realizzato con Gabriele Piccini, responsabile per l'Italia di Unicredit e per tutto il settore retail. Sentiamolo. Questo è un momento molto favorevole, diciamo, lei sa meglio di me che i tassi sono scesi significativamente, gli spread su questi tipi di prodotti sono scesi in modo importante, noi siamo stati tra i primi lo scorso anno ad abbassare i prezzi per quanto riguarda il prodotto mutui, siamo partiti con un 2% a metà dello scorso anno, ridotto all'1,75% a fine anno, e adesso abbiamo uno spread dell'1,5%. Questo sicuramente favorisce molto, in uno con l'Euribor che praticamente ormai è ai livelli minimi, se il non il trimestrale negativo. È azzerato praticamente, quindi. Esatto, quindi quello di fatto è il tasso che paga un cliente. A questo punto si ripristina in modo importante, diciamo, la comparabilità tra una rata di un mutuo e un affitto, per cui a questo punto si è tornati, è stata abbastanza importante la domanda. Io, diciamo, guardo soprattutto alla domanda di nuovi mutui legati a nuove compravendite, perché la domanda di mutui è fatta di due tipi: ci sono le nuove compravendite, no? E oppure ci sono le surroghe. No? Le surroghe rappresentano oggi circa il 30% del mercato, no? Dei mutui. Quando lei vede che i mutui crescono, teniamo presente che le surroghe, che un anno fa erano sostanzialmente zero, oggi rappresentano il 30%. No? Per quanto riguarda l'Unicredit, le surroghe oggi sono il 10%, sia in entrata che in uscita. Cosa vuol dire? Io prendo il 10% di mutui rubandoli alla concorrenza per quanto riguarda le surroghe, perdo il 10% verso la concorrenza. Quindi ho un impatto ridotto. Anche perché noi una politica di aggressione alle surroghe non abbiamo mai voluto farla, abbiamo voluto sempre fare una politica che mira a far crescere le compravendite e mira a far crescere il mercato. No? Da qui tutte le nostre iniziative, comprese le innovazioni di prodotto che abbiamo lanciato oggi, sono 4 prodotti nuovi che abbiamo messo, dal voucher mutuo, no? Che ti consente di avere già subito oggi un mutuo, anche se non hai ancora trovato la casa, al mutuo cambio casa, che il mutuo io ti do già sulla nuova casa, ancora prima che tu hai venduto la vecchia casa, facendoti pagare solo dopo 18 mesi, no? E quindi ti do tempo 18 mesi per vendere la vecchia casa, e se poi fra 18 mesi non l'hai venduta ci ritroviamo e ormai il mutuo te l'ho dato, quindi non posso certamente ricominciare a farti gravare, ma ti prorogherò l'agevolazione. Al mutuo rent to buy, lei sa meglio di me che oggi molti contratti che vengono stipulati tra proprietari e futuri acquirenti o affittuari sono i contratti rent to buy. Io entro in un immobile, pago un affitto, ma voglio riservarmi di poterlo comprare a un prezzo certo a una certa data. Certo, un'opzione. Senza perdere i soldi di affitto, ma i soldi dell'affitto che ti ho dato me li scali dall'importo una volta deciso. Sono contratti questi che stanno crescendo in misura importante sul mercato. Io come banca ti do già il mutuo il giorno in cui tu stipuli il contratto rent to buy, ti do già il mutuo in modo tale che ti assicuro già l'importo a scadenza che tu devi dare al compratore laddove decidi di comprare il mutuo, lo decido già oggi. In questo modo tranquillizzo te nel fare la scelta più consapevole e tranquillizzo chi ti dà la casa in affitto, diciamo, il giorno in cui decidi di comprarla, tu i soldi ce li hai. Il quarto tipo? Il quarto tipo è il mutuo che noi diamo ai costruttori, no? Che sono mutui oggetto, diciamo, della nostra iniziativa Ripresa Cantieri. Sono mutui a tasso particolarmente agevolato, perché, diciamo, vendere immobili di cantieri che sono da tanto tempo invenduti non è così semplice. E c'è molto invenduto sul mercato di, esatto, nuovo, peraltro. Sono mutui al tasso dell'1%, no? Quindi un mutuo molto agevolato con una finanziabilità al 100%. Vi siete dati un obiettivo in termini di erogazioni, dottor Piccini, un plafond appositamente dedicato a queste operazioni, a questa noi operazione multipla? Lo scorso anno abbiamo erogato 3 miliardi e 200 milioni di mutui nel 2014, no? Con una crescita rispetto al 2013 del 100%, 103%, quindi abbiamo più che raddoppiato l'erogato mutui. Quest'anno le domande di mutuo che riceviamo sono mediamente il doppio rispetto a quelle che ricevevamo l'anno scorso, no? È chiaro che aumentando la concorrenza, molte domande, diciamo, il cliente va a fare il shopping around, quindi magari fa la domanda da noi, poi va da un altro, quindi aumentano. Per cui la percentuale di crescita dell'erogato non è pari all'incremento della domanda, ma questo è oggettivamente perché c'è più competizione sul mercato. Riteniamo comunque quest'anno di consolidare i numeri dell'anno scorso, almeno con una crescita del 20% sullo scorso anno. Dottor Piccini, un'ultima domanda che mi sembra ci stia. Prendiamo atto di tutta l'innovazione di prodotto che avete messo in casa, tutto molto interessante, naturalmente innovazione di prodotto che vuole rispondere alle esigenze nuove della clientela, ma con un mercato del lavoro così precario ancora. La banca è in grado di accontentarsi di garanzie forse non totalmente soddisfacenti da parte della clientela? Noi da un punto di vista creditizio abbiamo rivisto un paio di cose. Uno, abbiamo aumentato il rapporto rata-reddito. Una volta era molto più stringente, oggi l'abbiamo reso più competitivo. Quindi vuol dire che il rapporto rispetto al tuo reddito, che è tradizionalmente quello che la banca vuole, del 30%, non sopra. Ma qui tu devi poter pagare la rata e mangiare, sostanzialmente, certo. La banca vuole questo, quindi, e non metterti in particolari difficoltà, no? Il 30% è una cosa indicativa, no? Perché diciamo, è il buon senso che te lo dice, no? Diciamo che se non puoi pensare di pagare una rata che sia più del 30% di quanto guadagni, quindi questo è. Noi l'abbiamo leggermente reso più flessibile, diciamo, anche venendo incontro a situazioni, diciamo, anche un po' più stringenti, no? Soprattutto abbiamo lanciato, che era il quarto prodotto che volevo dirle prima, poi ho aggiunto quello cantieri che mi ero dimenticato nella prima fase, che è un mutuo valore giovani, nel senso che noi abbiamo deciso di far cadere tutte le barriere. Quindi finanziare ai giovani con qualsiasi tipo di contratto, tenendo presente che oggi la maggior parte dei contratti dei giovani sono o il contratto a tutela crescenti, che è il nuovo contratto introdotto, sì, dopo le ultime misure prese dal governo, dal Jobs Act, e quello che vediamo è che molti contratti a tempo determinato a questo punto si stanno trasformando in contratti a tempo indeterminato, perché le agevolazioni fiscali sul contratto a tempo indeterminato sono tali da favorire la migrazione. E quindi è una domanda di credito per l'immobiliare potenziale molto interessante, maggiore, voi volete essere pronti. Maggiore, esatto. Abbiamo sentito le iniziative di Unicredit per il rilancio del settore immobiliare italiano, insomma fateci sapere un po' se andando in banca prossimamente in uno sportello di Unicredit vi sarà questa forte disponibilità a darvi credito per acquistare la vostra prima casa. Li valuteremo naturalmente, cercheremo di capire poi nei mesi come andranno. Intanto abbiamo ancora del tempo prima della chiusura di questa prima parte. Avevo detto che avrei trasferito tutta la borsa nella seconda parte di Focus Economia, ma in realtà qualche anticipazione su come è andata questa giornata con Eleonora Micheli possiamo farla. Eleonora, buonasera. Buonasera. Allora, Milano più 0,37%, ha visto proprio una giornata multipla oggi, potremmo dire, Piazza Affari, un po' in linea con le altre piazze europee che stanno avviandosi a chiudere questa seduta in maniera debole, anche Wall Street è negativa. Pesa naturalmente la Grecia, pesano alcune statistiche macroeconomiche, pesano ancora i trimestrali che sono in corso di diffusione. Cos'è pesato di più oggi, Eleonora? Ma ovviamente due sono, diciamo, i temi che più preoccupano gli investitori. In primis la Grecia, che sappiamo benissimo che la prossima settimana dovrà pagare 760 milioni di euro al Fondo Monetario Internazionale, ma è difficile che riesca a onorare questa scadenza, soprattutto perché l'11 maggio, il giorno precedente, pare proprio che non riesca a raggiungere un accordo con i creditori. Dopo che ieri hanno parlato fonti della Commissione, lo stesso Varoufakis, oggi si è aggiunto anche il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem, che addirittura ha detto che è impossibile raggiungere un accordo. E oltre a questo ovviamente c'è anche la preoccupazione per l'economia americana. Dopo il brutto dato sul deficit statale di ieri, si teme che il PIL americano, secondo le banche d'affari, dovrebbe aver registrato nei primi tre mesi dell'anno una frenata tra lo 0,3 e lo 0,5%. A questo punto è da vedere come si comporterà la Federal Reserve, se aumenterà e quando aumenterà i tassi. Non a caso anche l'euro si è subito rafforzato. Si è portato in area a 1,13 dollari. Ben 1,13,60 è arrivato, adesso è a 1,13,48, come si dice in gergo. Stamattina, essendo a 1,12, ha fatto praticamente una figura e mezzo. Senti qua come sono preparata. Esatto. Allora andiamo ai temi del giorno di Piazza Affari, riusciamo magari a raccontarne sì un paio. Certamente miglior titolo dalla seduta sul finale Mediolanum più 2,73, Azimut più 2,46%, sono due colossi, Mediolanum, non le piace che venga, che venga associata esclusivamente a Risparmio Gestito, però insieme ad Azimut stanno facendo un botto di raccolta di fondi comuni di investimento e generalmente gli investitori premiano questo aspetto. Oggi ci sono delle ragioni particolari per questa fiammata, soprattutto sul finale, Eleonora? Esatto, Azimut ha diffuso i conti sulla i numeri sulla raccolta netta di aprile, che è salita addirittura sopra il miliardo di euro anche grazie all'integrazione della società che l'azienda ha acquisito in Turchia. Comunque è un ovviamente si parla di un risultato record che ha subito premiato le azioni non solo di Azimut ma peraltro anche, come hai detto tu, della concorrente Mediolanum. Popolare dell'Emilia Romagna più 2 sul finale, Intesa San Paolo più 1,96, Unicredit più 1,84, abbiamo parlato a lungo per questo loro progettone sulla casa, sul settore immobiliare, il Banco Popolare più 1,67. Come mai queste banche così bene? Lo spread? Ma lo spread semmai avrebbe dovuto penalizzarle, perché quest'oggi è salito fino a 140 punti proprio sui timori di un eventuale default della Grecia, poi si è chiuso intorno a 134 punti, peraltro sono saliti anche rendimenti sui titoli di Stato. Il fatto è che venerdì MPS pubblicherà i conti del primo trimestre e inizierà la danza delle trimestrali del settore bancario, e proprio oggi è uscito uno studio di Credit Suisse che ipotizza che nei primi tre mesi dell'anno in media le banche italiane abbiano vantato un progresso dei propri utili attorno al 7%, cosa che fa ben sperare ovviamente non solo per i conti ma anche poi per i dividendi che andranno l'anno venturo a distribuire le banche. Allora ci riserviamo di parlare del resto, Eleonora, dopo il giornale radio, peraltro anche di Monte dei Paschi vorremmo parlare, anche se abbiamo la vigilia dei conti, ma dovrebbe partire a breve anche l'aumento di capitale. Insomma, tanti temi, a tra poco. Focus Economia. Eccoci ritrovati a Focus Economia, ancora buona serata a tutti da Deborah Rosciani. Stiamo terminando con Eleonora Micheli, collega di Radio Cori Il Sole 24 Ore, di commentare la giornata di borsa. Abbiamo fatto qualche considerazione sull'andamento del settore bancario, oggi avevamo lasciato un pochino in sospeso la questione di Monte dei Paschi. In realtà tu ci hai già preannunciato, Eleonora, che verranno diffusi i conti a breve di Rocca Salimbeni, ma l'aumento di capitale anche abbiamo in procinto di partire. Esatto, c'è infatti un aumento di capitale da 3 miliardi che dovrà effettuare a breve l'istituto, e comunque c'è ovviamente molti punti interrogativi sulla banca, che ieri ricordiamo aveva vantato un'ottima performance nonostante la giornata difficile di borsa, anche perché proprio il giorno prima il premier Matteo Renzi aveva parlato della costituzione di una bad bank a partecipazione statale di cui beneficerebbe per prima proprio Banca MPS, che ricordiamo a seguito dell'aumento di capitale, a seguito inoltre della conversione degli interessi che dovrà pagare al tesoro, vedrà nel proprio azionariato direttamente anche il tesoro, che sarà peraltro il primo azionista. Allora, intanto però sul finale è andata male per quasi tutta la giornata, sul finale ha fatto più 1,38%. Andai a vedere le maglie nere della seduta: Atlantia meno 4,60, poi male Fiat meno 3,32%, periodo un po' sull'otto volante per l'ex Lingotto, io a questo punto la chiamo così perché è più americana che italiana. Esatto, va detto che diciamo ci sono state prese di beneficio, perché da inizio anno a metà aprile i titoli sono volati di oltre il 60%, e quest'oggi diciamo a incoraggiare un po' di prese di beneficio sono stati dati sulle immatricolazioni del Brasile. Purtroppo FCA ha accusato un tonfo del 37% ad aprile contro un mercato che comunque è andato male, ma meno male rispetto alle immatricolazioni di Fiat. Il mercato brasiliano nel suo complesso ha registrato un calo delle vendite di auto del 24%. Che è un po' la percentuale invece di rialzo che ha avuto in Italia, per cui in realtà ha compensato ampiamente sul mercato italiano, secondo i dati che sono stati diffusi dal Ministero dei Trasporti nei giorni scorsi. Altri casi del giorno: Buzzi meno 2,90, Tenaris meno 2,18, Telecom, meno 1,63, cos'è successo? Telecom in questo caso sale l'attesa per l'importante consiglio di amministrazione di domani, chiamato innanzitutto a approvare i conti del primo trimestre che poi saranno diffusi venerdì. Però al di là dei conti del primo trimestre sale l'attesa soprattutto per le mosse che la compagnia effettuerà nei confronti di Metroweb e della fibra. Intanto il presidente Recchi ha detto che l'accordo con Fastweb non pregiudica la decisione su Metroweb. Vedremo domani che cosa decideranno i vertici della compagnia telefonica. Luxottica meno 1,56, Autogrill meno 1,44, Prismian è scesa di quasi un punto, A2A meno 0,78, Mediaset, qua abbiamo delle notizie da raccontare anche sul Biscione che è al centro di tantissime notizie di cronaca. Mediaset continua a rimanere ovviamente sotto i riflettori, soprattutto dopo le notizie a sorpresa di ieri sulle indagini relative a tutto il consiglio di amministrazione di A-Towers. Diciamo che anche Mediaset ha registrato una seduta volatile, ha chiuso poco sopra la parità, A-Towers ha risalito la china, quest'oggi ha chiuso in progresso di mezzo punto percentuale, invece Railway si è allontanata dai massimi che peraltro aveva toccato proprio all'inizio della settimana, del resto si allontana l'ipotesi di un'operazione straordinaria, viene messa un po' nel cassetto insomma il fatto che l'offerta di A-Towers vada comunque avanti, così le azioni hanno perso l'1,25% dopo peraltro il calo di ieri. Andiamo alle capitalizzazioni un po' più piccole, allora oggi molto movimento, vedo Blue Note che oggi è salita del 5%, quindi un po' di note musicali ogni tanto non guastano, abbiamo Beni Stabili più 6 e SNAI più 4 con notizie da raccontare. In questo caso per quanto riguarda Beni Stabili diciamo che l'intreccio è proprio con Telecom Italia, sono stati rivisti infatti dei contratti di locazione, inoltre Telecom Italia riacquisterà da Beni Stabili immobili per svariati milioni di euro e quindi sono tutte notizie positive che hanno spinto all'insù le azioni di Beni Stabili, peraltro sempre Telecom Italia ha confermato diciamo dei contratti di locazione allungando le scadenze. Insomma notizie positive. Per quanto riguarda invece SNAI, in questo caso diciamo a spingere le azioni è stata innanzitutto la trimestrale che è stata migliore delle attese con l'utile netto di 11,4 milioni in deciso aumento dai 2,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente, ma soprattutto l'azienda ha annunciato un accordo con Cogemat per creare un nuovo polo delle scommesse e dei giochi. Evidentemente il progetto piace al mercato che ha subito premiato le azioni. Ottimo, grazie ad Eleonora Micheli per essere stata con noi. I temi di mercato che monitoreremo nelle prossime ore saranno intanto certamente le elezioni in Gran Bretagna. Abbiamo poi il dato sulla disoccupazione americana di venerdì, insomma altri appuntamenti che non mancheranno di rendere effervescenti le sedute di borsa. Eleonora, buona serata e grazie. Adesso cambiamo di nuovo argomento, allora in realtà fra un po' devo ridare la linea al traffico, ma possiamo già anticipare la prossima intervista, perché qua abbiamo una manager molto in gamba, molto capace, che ha avuto un riconoscimento che le verrà peraltro attribuito proprio tra poche ore a Milano da parte del ministro dell'ambiente Gianluca Galletti. Abbiamo la nuova Women CEO dell'anno, praticamente l'amministratore delegato donna dell'anno, un premio che è stato attribuito dalla giuria del premio internazionale Le Tecnovisionarie, un premio che è destinato a donne che contribuiscono a portare innovazione sostenibile nella società. Il riconoscimento viene dato a Tiziana Primori, amministratore delegato di Italy World Bologna, che è collegata telefonicamente con noi, ne siamo molto contenti. Buonasera dottoressa Primori e benvenuta. Buonasera, grazie dell'invito. Allora, intanto è emozionata, se l'aspettava questo premio? No, non me l'aspettavo assolutamente. No, perché essere definita una tecnovisionaria ha un suo perché. Sì, perché devo dire che la cosa che mi è piaciuta di più è stato anche il titolo, perché dà l'idea di una grande praticità tecnica, quindi di realizzazione, ma la realizzazione non può mai prescindere da una visione. E dentro la visione c'è sempre cultura, ci sono uomini e donne, c'è il nostro paese, e quindi è molto bello. Certo, diciamo che è un premio che le viene riconosciuto un po' per i suoi molteplici ruoli, i suoi molteplici impegni, non perché sia stato associato ad un'iniziativa speciale che ha seguito, dottoressa Primori, tanto per capire anche un po' come funziona questa iniziativa. Sì, è un po' diciamo un riconoscimento del modo di lavorare, dei progetti principali realizzati, delle cose fatte e anche del valore che in qualche modo si porta alla società, cercando di, tra virgolette, gestire il potere in modo diverso. Ecco, allora, tra le cose fatte e le cose da fare ci sono quella che lei sta seguendo in prima persona in questo momento, che peraltro si incrocia anche un po' con Expo 2015, anche se l'iniziativa che lei sta seguendo adesso ultimerà il suo percorso solo fra qualche mese, quindi diciamo ci sarà anche un po' poi questo passaggio di testimone ideale fra la chiusura di Expo 2015 e la partenza del progetto FICO, che lo è anche davvero, devo dire, però è l'acronimo di Fabbrica Italiana Contadina. Praticamente il primo parco tematico dedicato all'eccellenza e alla ricchezza dell'agroalimentare italiano, che però non avrà come sede Milano ma Bologna, dottoressa Primori, giusto? Esatto. Fabbrica Italiana Contadina nascerà ai primi del 2016 a Bologna. E stiamo parlando di 10 ettari, di cui 8 coperti e 2 di alberi da frutta. Invece del giardino avremo gli ortaggi e invece dello zoo avremo tutti gli animali della nostra terra, quindi dalle mucche alle suini, alle aie con le galline. Un investimento di che tipo? Di che cifra stiamo parlando? L'investimento è un investimento di circa 100 milioni di euro, di cui 50 milioni l'immobile già esistente e 50 di ristrutturazione e riprogettazione. Un luogo che so che voi amate dire dedicato soprattutto ai giovani per far conoscere loro i temi della biodiversità, la trasformazione del cibo, le materie prime, fino naturalmente alla tavola, quindi c'è anche tutto un progetto didattico e formativo che guarda la crescita armonica delle persone, ma non solo, anche della comunità e dell'impresa. State intanto anche selezionando i ristoranti italiani che saranno insediati nella struttura, no? Un lavorone che sta facendo uno chef molto noto, che è Massimo Bottura. Sì, allora, questo parco tematico, la prima cosa che deve fare è deve manifestare ai nostri giovani e al mondo la nostra biodiversità, quindi deve rappresentare le caratteristiche delle nostre eccellenze, dimostrando che per i nostri prodotti sono molto diversi dagli altri e quindi per dimostrarlo anche far vedere i campi, far vedere le fabbriche, perché ci saranno 40 posti dove si produrrà pasta, si produrrà parmigiano, si produrrà olio, quindi proprio per evidenziare bene quali sono le caratteristiche dei nostri prodotti, come dire, far capire che per fare una forma di parmigiano ci vuole tanto tempo e tanta maestria. Dottoressa Primori, lei lo sa che quando i mercati finanziari crescono tanto prima o poi vanno in bolla, e quando la crescita è esasperata, esagerata, queste bolle scoppiano, no? Non è che per l'agroalimentare stiamo andando verso questa strada, che con tutte queste iniziative di importanza incredibile, perché non si parla mai abbastanza probabilmente dell'eccellenza italiana nel mondo, anche se molti ce lo riconoscono, ce la chiedono tutti, la vogliono tutti, la apprezzano tutti, ma non staremo un po' esasperando anche gli animi? Non arriveremo al punto in cui stancheremo un po' gli italiani di parlare di tutto questo? Ci promette che non arriveremo a tanto? Io penso che non arriviamo a tanto, anche perché in realtà qui si tratta di parlare al mondo, non solo di parlare all'Italia. Le faccio solo un esempio: i paesi arabi importano all'anno 10 miliardi di agroalimentare, noi rappresentiamo il 2% di questa importazione. Questo è un grande cavallo di battaglia di Oscar Farinetti, gliel'ho sentita tante volte, questa proporzione, magari gliela ha data lei a lui, No, non lo so, nel senso che se nel lavoro i numeri di base su cui lavorando e anche sono i contatti e i lavori quotidiani con i paesi stranieri che stiamo facendo rispetto a questa situazione. Allora, se parliamo di cultura del cibo, non possiamo arrivare alla bolla, perché la cultura del cibo, in questo momento il cibo è anche molto unificante nel mondo, perché è un problema per i paesi che non hanno da mangiare, quindi è un problema per capire come rendere sostenibile un'economia e produrre quindi grano per tutti, è un problema per chi è comunque un paese molto sviluppato e mangia troppo rispetto a questa situazione, ma è anche un problema per i paesi emergenti, perché se penso ai paesi asiatici devono comunque stabilire un cibo buono. Ecco, l'Italia ha una storia di cibo naturale, di cibo buono, siamo i primi nel biologico. Abbiamo anche negli anni dove tutto si rendeva uguale, come gli anni 80 e 90, le nostre fabbriche sono state molto diverse, hanno sempre tentato e tenuto comunque una qualità diversa anche nella trasformazione. Allora, questo è un know-how vero che ci viene da mille anni di storia, dal nostro modo di essere, e in qualche modo dobbiamo preservarlo, costruire professionalità per poi portarle nel mondo. Abbiamo capito, insomma, perché le è stato dato questo appellativo di tecnovisionaria. Dottoressa Primori, noi ci auguriamo di sentirla al più presto. Intanto la lasciamo andare alla manifestazione dove questa sera le verrà conferito questo premio di Women CEO dell'anno dalla giuria del premio internazionale Le Tecnovisionarie. È un'iniziativa comunque nell'ambito di Expo Women Global Forum. Grazie. Un'unica e complimenti. Cosa, certo. Questo non è un premio singolo, io lo sento un premio dell'Italia, in particolare noi della cooperazione da dove io vengo e lavoro, e lo dedico a Ivano Barberini che è stato un grande presidente. Grazie, grazie molte. Buona serata, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto. Grazie. E allora, noi nel frattempo ci fermiamo velocemente, ancora il traffico, mi sono dilungata a parlare di cibo perché adesso devo parlare di reverse charge, quindi ho avuto bisogno di grande carica anche alimentare, energetica, a tra poco. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. In realtà abbiamo 6 minuti di tempo per parlare molto rapidamente di una questione estremamente complessa, ma Gianni Trovati del Sole 24 Ore sarà capace di sintetizzarcela al punto tale da appassionarci di reverse charge, di questo principio che stabilisce l'inversione contabile dell'IVA di chi la deve versare, un tema che è stato portato alla ribalta della cronaca, se vogliamo, fiscale dall'ultima legge di stabilità che ha modificato un po' i principi secondo cui questa l'IVA appunto deve essere versata. Forse non l'ha fatto solamente la legge di stabilità, Gianni, la legge di stabilità ha previsto tutti quei settori che devono adeguarsi, no, a questa inversione contabile dell'IVA. Spiegaci in termini semplici di che cosa stiamo parlando e perché, se dovesse arrivare una bocciatura di questa disciplina da parte dell'Unione Europea, noi rischieremo di vedere subito applicato l'aumento delle accise a partire dal 1 luglio, perché poi il tema vero è questo e riguarda tutti i contribuenti. Sì, buonasera. Esattamente questa è la ragione che ci fa appassionare, diciamo, al reverse charge, perché il reverse charge è un meccanismo anti-evasione dell'IVA. Sostanzialmente il fornitore, in questo caso della grande distribuzione, perché la norma è relativa alla grande distribuzione, non si vede riconosciuta l'IVA, ma l'IVA viene girata direttamente allo Stato. Questo servirebbe appunto a ridurre l'evasione IVA, per cui sono stati contabilizzati nel bilancio pubblico dei maggiori soldi, delle maggiori entrate, e se non arrivano queste entrate, come sempre accade nei rapporti con l'Europa, scatterebbe una clausola di salvaguardia che in grado di assicurare lo stesso risultato al bilancio, ma in modo diverso, cioè chiedendo i soldi a noi, in particolar modo per quanto riguarda le accise. Questo perché? Perché l'IVA è una roba delicata, l'IVA serve per finanziare sostanzialmente l'Unione Europea, per cui ogni manovra nazionale sull'IVA deve avere un via libera europeo. Noi abbiamo forse un po' esagerato nell'ultima legge di stabilità, perché abbiamo fatto sostanzialmente lo stesso meccanismo anche per i fornitori della pubblica amministrazione, lo abbiamo esteso nel privato appunto alla grande distribuzione e a altri settori, l'edilizia, le pulizie, l'edilizia eccetera, e questo senza avere il preventivo via libera europeo, confidando un po' nella sorte. La sorte non è sempre un'alleata favorevole, allora si prospetta un via libera a metà, cioè dovrebbero dirci di sì sostanzialmente per lo split payment e dirci di no per l'ampliamento del reverse charge. Tecnicalità a parte, anche in questo caso... No, ecco, per capire di cosa stiamo parlando, ammettendo che tu sei un fornitore di un bene o di un servizio, io sono il fruitore finale di questo bene e di questo servizio. Sì, io ti vendo una cosa, esatto, te la fatturo. E in un mondo normale tu mi paghi con IVA. Ah, certo. Tu mi paghi però con IVA, tu allo Stato. Che poi io verserò, ecco, allo Stato. Invece con l'inversione contabile, si chiama inversione, perché io che ti vendo una cosa, un servizio, un bene, eccetera, non ricevo l'IVA, ma direttamente l'acquirente, per esempio la pubblica amministrazione, ci pensa lei a girarla, ecco, allo Stato. Ma qualcuno la paga, quindi qual è il problema? I problemi sono tanti. Il primo problema, le imprese, il giro dell'IVA serve ad alimentare un po' come il flusso sanguigno le casse delle imprese. La CNA calcola che in totale, in tutti i meccanismi di inversione contabile dell'IVA, tolgano liquidità per circa 2 miliardi di euro al sistema delle imprese. Naturalmente la cosa riguarda in particolare le piccole e medie, in particolare quelle che hanno gran parte della loro attività verso i settori, esempio la PA, interessati dal meccanismo. Questo è il primo dei problemi. Naturalmente questa cosa è determinante dal punto di vista dell'equilibrio di bilancio, perché poi le stime bisogna vedere, no? Se sono vere, nel senso che si è detto noi utilizziamo questo meccanismo così riduciamo tra tutto, tra split payment, reverse charge eccetera, la evasione dell'IVA per circa 3,3 miliardi. Poi le stime si fanno ottimistiche, questo lo si sa. Il problema è che l'Europa non ci sta e di conseguenza impone clausole di salvaguardia che sostanzialmente dicono se non va come dici tu, ci vuole un altro meccanismo che scatta in sostituzione che permette di raggiungere lo stesso risultato. Sono tempi duri perché negli ultimi giorni abbiamo avuto le pensioni, abbiamo avuto appunto questa possibilità di un no dell'Europa sul via libera al reverse charge e in più dal 2016 abbiamo ancora tutta un'incognita da 16 miliardi di euro che scatterebbero come aumento ancora una volta dell'IVA se noi non riusciamo a fare la spending review. Naturalmente ora in tutto questo bailam parlare di tesoretto è ormai superato dagli archiviato. Eventi, ma soprattutto aumentano le incognite soprattutto in questa fase iniziale di ripresa. Gli indicatori macroeconomici dicono che la ripresa c'è. Naturalmente se tu aumenti a ripetizione le imposte indirette, le accise che si pagano sulla benzina e poi le aliquote dell'IVA, tu questa ripresa, come dire, nascente la ammazzi in culla. Molto bene, intanto oggi Confindustria ha detto che la reverse charge è devastante, quella naturalmente che riguarda, come diceva Gianni Trovati, la grande distribuzione. Quindi a questo punto, Gianni, fra un secondo noi ci salutiamo, quali sono le prossime notizie che aspettiamo per capire come verrà dipanata questa matassa? Allora, il reverse charge è devastante per i problemi di liquidità che dicevamo, esatto. Potrebbe essere in parte compensato da un meccanismo che velocizzi i rimborsi dell'IVA, perché lo Stato è puntualissimo a chiedere e molto lento a dare. Questa cosa è promessa, ma è promessa da molto tempo. Grazie a Gianni Trovati, grazie a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno per l'aiuto in redazione, Filippo Aureggi in assistenza tecnica. Il mio impegno con Focus termina qui, ritorno domani regolarmente a Cuore Denari. A tutti buona serata. Radio 24, la passione si sente.